Lan Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ben ritrovati a tutte e tutte. Ciao da Frey. E da Debs. Eccoci di nuovo con una nuova puntata di Vallun, il programma di storia a cura del Caso S che vi tiene compagnia il sabato nel primo pomeriggio. Oggi è il 4 novembre, una giornata direi piuttosto problematica, e viene da calendario, è la festa delle forze armate ed è anche la giornata in cui viene firmato l'armistizio della prima guerra mondiale fra Italia e Austria-Ungheria. E andiamo per l'appunto a parlare di storia delle forze armate, storia dell'esercito italiano e di militari, con uno dei pochi che questo argomento lo conoscono veramente, perlomeno fra le persone che conosciamo. Andiamo a presentare subito Jacopo Lorenzini, storico dell'Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli, vecchia conoscenza del caso S, che ha da poco pubblicato la sua tesi di dottorato in un ricco libro di storia istituzionale, Uomini Generali, l'elite militare italiana nell'Italia liberale 1882-1915, edito da Franco Angeli, che vi presenteremo nell'arco di questa puntata. Con Jacopo Lorenzini, che da anni studia questo tipo di argomenti, andremo a capire quella che è stata l'elite, un'elite fra le tante, scusate, ovvero il corpo ufficiale dell'esercito italiano all'interno dell'Italia liberale, ovvero sia l'Italia che va dall'unità alla grande guerra. Chiacchiereremo con lui del suo libro, ma ne approfitteremo anche per parlare un po' della grande guerra, un evento molto importante di cui spesso si è parlato in occasione del centenario. Ciao Jacopo, ben trovato su Vallun. Ciao Jacopo. Allora, partiamo da una breve riflessione per inquadrare il tuo lavoro. Qual è lo stato degli studi in questo settore e perché in particolare ti sei dedicato allo studio degli ufficiali, quella che tu definisci come un'elite, fra le altre, dell'Italia liberale, ricordiamo, l'Italia fra l'unità e la grande guerra? Ti pongo questa domanda perché il tuo lavoro sembra porsi nel mezzo fra quegli studi militari che sono stati dedicati negli anni, banalizziamo, alla strategia militare e alle scelte fatte dai generali sul campo di battaglia, e altri studi, pensiamo a quelli fondamentali di Giorgio Rocha e di Nicola Labanca, che si sono invece concentrati più sulla vita dei soldati e sul ruolo sociale dell'esercito. Perché quindi studiare l'elite? Qual è il ruolo che queste elite hanno giocato nella costruzione dell'Italia? Allora, diciamo innanzitutto che quella militare è un'istituzione fra le tante che compongono uno Stato, in questo caso lo Stato nazionale italiano al momento dell'unità. E lo studio delle istituzioni spesso si sofferma sulla forma, sulle norme, sulle regole che costruiscono e che fanno funzionare queste istituzioni, ma si disinteressano abbastanza delle persone che abitano queste istituzioni e che in realtà ne determinano poi la prassi, l'agire nella vita di tutti i giorni. Ecco, l'istituzione militare nell'Ottocento, non solo in Italia, è una parte integrante e anzi qualificante dello Stato. Pensiamo al fatto che uno Stato nazionale moderno noi lo definiamo anche in base al fatto che ha il monopolio della violenza, e questo significa avere un'istituzione che si occupa di agire la violenza sia all'esterno con le guerre sia all'interno con la repressione. Tra tutte le istituzioni dello Stato, la magistratura, l'amministrazione, quella militare invece non ha mai avuto studi sulla sua elite dirigenziale, su quella che appunto è un gruppo dirigente vero e proprio dell'istituzione. E questo è ciò che ho provato a fare io. Allora, partiamo subito entrando nel vivo della questione. Uomini e Generali è un libro che è costruito sulla ricerca d'archivio, in cui si è andato a ricostruire dei profili biografici di alcuni ufficiali. Naturalmente poi qui mi verrebbe da chiederti se ce n'è qualcuno di questi ufficiali che hai studiato a cui sei particolarmente caro, ma vorrei cercare di capire, anche per farlo capire agli ascoltatori, chi sono concretamente questi ufficiali, cioè chi è che abita questa istituzione come tu hai detto, come si è formato. Un'attenzione molto particolare la dedichi anche alla questione degli studi, cioè alla formazione che questi ufficiali hanno avuto e al loro abito mentale, diciamo. Allora, intanto la prima cosa da dire è che non si tratta di un'elite omogenea, non è un gruppo dirigente particolarmente coeso, soprattutto all'inizio. Infatti la prima grande differenza interna è fra chi ha fatto il Risorgimento e chi no, chi ha combattuto prima dell'Unità d'Italia e rimane all'interno dell'istituzione dopo, e chi invece ci arriva dopo da giovane ufficiale. E tra i primi c'è di tutto, ci sono i garibaldini, ci sono i piemontesi, ci sono coloro che hanno fatto i militari negli stati prioritari e poi continuano a fare i militari nell'esercito italiano. Quindi anche i cosiddetti avversari c'erano? Assolutamente, ci sono ufficiali napoletani, siciliani, toscani, provenienti dalle regioni dello Stato della Chiesa. E appunto è un'elite molto composita, molto anche poco coesa appunto. E invece a me interessava di più la generazione successiva, quelli che hanno 20 anni nel 1860 e entrano in quel momento nell'istituzione militare, perché quelli hanno il compito di creare questa elite coesa che governi l'istituzione da lì fino alla Prima Guerra Mondiale. E tra questi secondi intanto ci sono dei tratti in comune, sono in maggior parte borghesi, non sono più nobili. Come invece saremmo abituati a pensare. Assolutamente. Cioè, nel 1860, al momento dell'unità, la maggior parte della classe dirigente militare è composta da nobili, in buona parte piemontesi. Invece negli anni successivi quelli che entrano sono in gran parte borghesi. Anche figli di piccoli commercianti, insomma c'è una differenziazione maggiore all'interno della composizione sociale di queste elite. E sono anche, la cosa che mi è parsa più interessante, sono anche, possiamo dire tra molte virgolette, idealisti, nel senso non sono grigi burocrati, sono persone che anche grazie alla formazione che ricevono alla scuola di guerra di Torino, che è un'istituzione parificata a quelle universitarie fondamentalmente, ricevono un'istruzione che va dalla letteratura alla nascente scienza politica e scienze sociali, e che gli ha il compito di renderli proprio quadri dirigenti di un paese e di conseguenza quadri dirigenti che hanno delle idee, che sono all'interno chiaramente dell'ideologia liberale positivistica dell'epoca. Sono darwinisti, ad esempio, sono convinti che nelle guerre vinca il popolo più forte, non solo l'esercito più attrezzato. E anche all'interno della società. Allora, adesso ci prendiamo un attimo una piccola pausa e chiederei a Jacopo di presentarci uno dei pezzi che ci ha portato. Beh, diciamo che per iniziare possiamo far partire questa Morire per la Patria della Fuzz Orchestra. Bene, ritorniamo in onda, siete sempre su Vallun, siamo sempre con Jacopo Lorenzini, uno storico delle istituzioni che ci sta presentando Uomini e Generali, l'elite militare italiana nell'Italia liberale 1882-1915, edito da Franco Angeli. Stavamo parlando della galassia di questi ufficiali che compongono l'elite militare, stavamo raccontando qualcosa della loro visione del mondo, che dicevi essere piuttosto sfumata, non uniforme come si potrebbe pensare per un'istituzione totale come è quella dell'esercito. Io ti vorrei chiedere un'altra cosa. Parlavi di questa generazione di passaggio, che ti sei concentrato su quella generazione post-unitaria che guiderà l'Italia anche in guerra. Ma come reagiscono i tuoi ufficiali, mi permetto di dire, ai grossi cambiamenti che ci sono in Italia e in Europa al volgere del secolo? E poi, come si preparano e come vedono un'Europa che sta cambiando e si sta indirizzando verso una nuova grande guerra? Beh, abbiamo detto che sono titolari di idee, sono idee che stanno più o meno tutte, parlandoci chiaro, all'interno dell'area dei liberali conservatori. Sono pochissimi gli ufficiali che hanno idee all'avanguardia, diciamo, o ispirate ai movimenti di massa che proprio alla fine dell'Ottocento iniziano a comparire. Ci sono dei repubblicani, ci sono dei simpatizzanti del socialismo, ma sono pochissimi. La maggior parte sono liberali conservatori, ma anche all'interno di questo gruppo ci possono essere gli autoritari o quelli più sensibili alle tematiche sociali. E allo stesso modo ci sono quelli favorevoli all'impegno italiano nelle guerre coloniali e quelli contrari, ci sono quelli favorevoli a una politica di potenza sia all'esterno che all'interno. Cioè, tu hai citato la crisi di fine secolo, durante la crisi di fine secolo c'è il generale Pellù che diventa capo del governo e contribuisce a quello che è stato chiamato il tentativo di colpo di stato della borghesia, ma ci sono anche i generali che tra di loro si spediscono lettere dicendo che trovano inaccettabile la sospensione delle garanzie statutarie e che non vorrebbero essere nominati commissari straordinari incaricati della repressione. C'è questa differenziazione. E c'è questa stessa differenziazione quando l'Italia entra in guerra. Il ministro della guerra del 1914, il generale Domenico Grandi, ad esempio, è un neutralista dichiarato, che tra l'altro questo gli varrà il pensionamento a opera di Cadorna negli anni successivi. Cadorna invece, per esempio, è un interventista, ma tengo a sottolineare il fatto che Cadorna non è un alieno all'interno delle istituzioni militari. Spesso si dice Cadorna arriva e distrugge, Cadorna incompetente, Cadorna di qua, Cadorna di là. Cadorna è un prodotto di quell'istituzione, di quel sistema formativo, che può produrre persone che hanno idee differenti le une dalle altre. Ma a questo punto, guarda, visto che abbiamo tirato in ballo corposamente la Grande Guerra, vorrei provare a chiederti una cosa, cioè qual è la reazione dell'esercito nei confronti dei primi, cioè della vera entrata in guerra e di questa nuova guerra che si sta presentando, nei confronti della quale possiamo dire che è un elemento piuttosto risaputo che l'Italia si presenta impreparata rispetto a questa avventura militare? Beh, la classe dirigente militare è in gran parte consapevole dell'impreparazione. Lo stesso Cadorna, che è favorevole all'intervento, è assolutamente consapevole dell'impreparazione. Anche qui però ci sono diverse risposte che questa classe dirigente dà. C'è la risposta cadorniana, che è quella di, appunto, in linea con le idee darwiniste delle quali dicevamo prima, insistere tutto sulla volontà e sulla, che si traduce poi nelle sue idee sull'attacco frontale, sulla superiorità del valore morale rispetto a quello tecnico. Non ci servono, non abbiamo bisogno delle armi perché siamo italiani, siamo convinti, abbiamo le nostre buone ragioni. Ecco, e dall'altra parte ci sono generali che si fanno appunto pensionare anticipatamente o perché neutralisti o perché contrari ad esempio alle fucilazioni, perché appunto sempre in linea con quello che dicevamo prima ritengono che fucilare dei soldati cittadini sia assolutamente folle in un contesto liberale. Va detto che comunque non consideravano altrettanto folle fucilare dei soldati indigeni quando stavano in colonia. Qui apriremmo tutto un altro discorso molto più ampio, che ci porterebbe altrove. Ma qual è all'interno all'interno dell'università, all'interno dell'accademia e della ricerca, come si sta affrontando per l'appunto questo tipo di cambiamento, anche alla luce del fatto che sono passati 100 anni dalla Grande Guerra. Ma questo ti chiedo uno sguardo sulla Grande Guerra, ma anche uno sguardo retrospettivo sul periodo che hai studiato più specificatamente te. Cioè, come si sta raccontando adesso la storia militare, la storia di questa istituzione, come tu hai fatto? Beh, come in tante altre cose, c'è una grande differenza tra come viene raccontata all'interno dell'Accademia, appunto, come dicevi tu, nella letteratura specialistica, nella saggistica, e come viene raccontata in pubblico. Nel senso, anche qui, ancora una volta, gli storici, volente o nolente, hanno ceduto il passo ad altre categorie, i giornalisti. Negli ultimi due anni sono usciti libri di grande diffusione, firmati però non da storici, ma da giornalisti come Aldo Cazzullo, Paolo Rumiz, Paolo Mieli, eccetera. E questo crea dei problemi, perché appunto, come anche nella storiografia sulla guerra partigiana, si ha l'impressione che l'Accademia sia indietro, quando in realtà l'Accademia produce riflessione storica che però non arriva al pubblico, per demeriti dell'Accademia certamente, e anche per demeriti dell'industria editoriale di questo paese, che non veicola questi contenuti. E a proposito di grande pubblico, di collegamento con le riflessioni storiche specializzate, ci chiediamo da storiche, da storici che hanno grossa attenzione per gli ascoltatori e le ascoltatrici, com'è che il centenario della Grande Guerra sta attraversando la stampa mainstream. Siamo ancora appunto all'interno di quei quattro anni, 2014-2018, di celebrazioni e riflessioni in merito appunto al centenario, e sappiamo bene ormai, come appunto diceva Jacopo, che ormai sono per lo più i giornalisti, opinionisti di vario genere che parlano di temi storici, e sempre meno chi la storia la studia davvero, chi davvero si confronta con le fonti e un dibattito specializzato. Appunto, non trattiamo qui di chi è la colpa o il merito, però appunto quello che ci interessa è capire come la storia viene affrontata in quelle pagine che in effetti al grande pubblico arriva. Quindi ci chiediamo, come viene narrata in vista del centenario la Grande Guerra? Quali sono i messaggi che si vogliono far passare? I soldati erano tutte vittime, poverini, c'è ancora questo senso pietistico, oppure c'è l'attenzione sul senso di avventura della nazione in qualche maniera velata rispetto all'Europa, per esempio? Non so, dici tu appunto qual è il messaggio, qual è la narrazione che i giornali italiani, ma poi se ti viene in mente anche qualsiasi altro mezzo, insomma dicelo, qual è il messaggio che si vuole passare sulla Prima Guerra Mondiale, cioè che cosa ci vogliono raccontare? Beh, hai detto quasi tutto tu, nel senso, il messaggio che viene veicolato è, da un lato, questa vittimizzazione dei soggetti della narrazione, cioè i soggetti sono sempre appunto i soldati, sono sempre i profughi, i civili, e il racconto della cui vicenda è certamente lodevolissimo, ma che rischiano di appiattire tutta la rappresentazione e il racconto di questo conflitto. Siamo tutti d'accordo che in trincea si viveva male, che gli ufficiali erano spesso tirannici, che i soldati erano vittime, che i profughi erano vittime anch'essi. Detto questo, ci vuole un ulteriore approfondimento, un'ulteriore riflessione e problematizzazione, perché altrimenti si rischia di passare di là, di passare nelle interpretazioni, ad esempio, della Grande Guerra come grande momento di unificazione del popolo italiano, che stava tutto nelle trincee, che inizia a parlare la stessa lingua. Sono interpretazioni che non mi convincono particolarmente. Io l'ho detto esattamente la settimana scorsa in classe, questa è esattamente la cosa di cui tu hai parlato, cioè a testimonianza del fatto che è una visione molto, anche molto radicata oramai nell'immaginario e nella retorica di quello che... Certo, ma che poi la stessa retorica che riguarda l'istituzione militare prima della Prima Guerra Mondiale, scuola della nazione, sostituto agente dell'alfabetizzazione degli italiani, grazie al reclutamento nazionale gli italiani vedevano il resto del paese per la prima volta, tutte cose assolutamente vere, ma che non tengono conto, ad esempio, tra le altre cose, di un fatto. Questo valido sempre sia prima della guerra che soprattutto durante la guerra. se il primo contatto che un contadino o comunque un italiano medio dell'epoca ha con lo Stato è quella di una istituzione essenzialmente autoritaria e spesso violenta e in guerra, quella degli ufficiali tirannici, che idea si fa a questo italiano dello Stato nel quale vive? Secondo me un'idea che mal combacia con tutta la retorica sull'unificazione del paese nelle trincee, sinceramente. Ti chiedo un'ultima cosa. Secondo te, appunto, a livello mainstream, la grande guerra, almeno per quanto riguarda il caso italiano, viene narrato come una sorta di parentesi oppure viene preso in considerazione un prima? Cioè le tensioni che ci sono state prima da un punto di vista della società civile, delle istituzioni, oppure no, secondo te, viene un po' narrato come cosa a sé? No, la Grande Guerra è inserita in un percorso, anche lì ci sono diverse interpretazioni. L'interpretazione secondo me più convincente è quella che vede la Grande Guerra come botta d'arresto di progressi che si stavano facendo nella società italiana prima del conflitto. Le leggi sociali che nei primi anni del Novecento venivano fatte, il diritto di sciopero, le assicurazioni obbligatorie. La Grande Guerra è un momento che interrompe questo processo. Non a caso che subito dopo la Grande Guerra inizia il regime fascista, non è casuale questa cosa. Credo che vada letta in questa visione molto più problematica. Non un momento a sé stante, non un punto d'arrivo dell'unità nazionale, ma un momento di grande crisi, sia dello Stato liberale, questo è assodato, ma anche della società italiana nel suo complesso. Bene, siamo arrivati in coda alla chiusura della nostra chiacchierata. Ringraziamo Jacopo Lorenzini, che ricordiamo essere uno storico dell'Istituto Italiano degli Studi Storici di Napoli e l'autore di Uomini e Generali, l'elite militare italiana nell'Italia liberale 1882-1915, edito da Franco Angeli. E grazie Jacopo, è stata una bella chiacchierata su un argomento che ancora non avevamo toccato qua da Vallun. Sì, non abbiamo iniziative da segnalarvi, ma appunto ricordandovi che il centenario, sicuramente siamo ancora appunto negli anni del centenario, sicuramente vi invitiamo a leggere le pagine culturali dei giornali, fare attenzione appunto a queste nuove uscite che sicuramente sull'onda del centenario vedrete delle più produzioni, insomma fateci caso e speriamo che i nostri consigli vi portino a leggerle con un occhio più critico. Allora Jacopo, ti salutiamo, ti chiediamo di segnalarci l'ultimo pezzo che hai portato per noi. Assolutamente, e per chiudere direi di usare un pezzo di PJ Harvey dall'album Let England Shake del 2011. È un omaggio ai caduti nella Prima Guerra Mondiale e si intitola Hanging in the Wire. Bene, buon ascolto e a sabato prossimo. Ciao a tutte e tutti da Frey, Debs e Jacopo. Sees the